Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria tiene ancora banco a livello di politica chiaramente italiana il tema della riforma fiscale. Nuove dichiarazioni oggi del ministro Tremonti, ne ascolteremo alcune in apertura del programma e poi l'approfondimento alle 18:15 sul tema fiscale. Tremonti in sostanza ha detto, come già vi hanno ricordato i nostri GR, deve iniziare la politica a tagliare per poi chiedere i tagli anche al resto del paese. Meno aerei blu, più meno aerei e auto blu, più aerei all'Italia. E ancora ogni ministro dice i tagli vengono fatti all'altro. Insomma, ha parlato il ministro Tremonti all'assemblea della Confartigianato, anche degli artigiani. È arrivata una forte richiesta: la politica è assente, la risposta della politica è assente, la ripresa stenta. In Italia ci sono 54 miliardi di tasse in più della media europea. Di questo parleremo, dicevo, nella seconda ora del programma. Apriremo con alcune reazioni al referendum di ieri, quindi a cavallo tra politiche economiche, intese come politiche energetiche, e politica politica. Poi, come sempre, la borsa, che va bene oggi, va meglio, leggermente meglio in altre piazze europee. Penso a Francoforte più 1,80, Parigi più 1,60, Milano più 1,40, Londra più 0,77, l'America guadagna l'1% in questo momento, euro su dollaro a quota 1,44,73, dicevo bene grazie ad alcuni titoli. Ansaldo STS più 4,5%, vicinissima ai 10 euro per azione. Buone le prospettive per il settore ferroviario. Ansaldo STS fa segnaletica per gli impianti ferroviari. Fiat Industrial più 2,92%, quindi camion e trattori del gruppo Fiat. Ieri roadshow a Londra per l'emissione delle obbligazioni. Il mercato, secondo gli operatori, sembra ben disposto. Bene tutto il settore auto in Europa, e anche Fiat Auto, che si chiama ormai Fiat, fa più 2,88%. E bene Pirelli più 2,70%. Dovrebbero essere chiusi a luglio gli accordi di joint venture con la Russia. E poi Assorin più 2,6, Unicredit più 2,40, Mediolanum più 2,30, bene oggi tutte le banche, Intesa San Paolo più 2,30 anch'essa, Saipem più 2,2, ST Microelectronics più 2,1, Buzzi Unicem più 2%, come Finmeccanica. Chi perde? Solo UbiBanca, che fa eccezione anche nel panorama bancario, meno 1,07%. Questi temi, e poi chiaramente tratteremo anche il settore delle calzature. Inizia un viaggio di Focus Economia nei vari settori produttivi, e a dire il vero è già iniziato la settimana scorsa con il settore del legno arredo. Oggi sarà la volta delle calzature, poi proseguiremo con il sistema moda e tessile. Facciamo il punto prima dell'estate, prima della cosiddetta pausa estiva, settore per settore, partendo chiaramente dalle cosiddette 4A che reggono l'export italiano. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Vedo subito una domanda su quali sono le 4A. Le 4A sono un'intuizione dell'economista Marco Fortis, più volte nostro ospite. Le 4A su cui si regge il nostro export si chiamano automazione, arredo, e quindi legno arredo, abbigliamento, e quindi sistema moda e tessile, ma anche il calzaturiero, e poi l'alimentare. Andiamo avanti con le notizie internazionali. Il petrolio 97,8 dollari. La Cina ha una produzione industriale che fa spavento nel senso positivo del termine, cioè più 13,3% a maggio, oltre ogni stima. Più 13,3% è il dato anno su anno, ma la Cina già nel 2010 era completamente uscita da quel poco di crisi che ha avuto nel 2009, e l'inflazione sale al 5,5%, è il dato più alto da quasi 3 anni a questa parte. Tant'è che la Cina varerà una nuova stretta sulle riserve obbligatorie delle banche per contrastare la corsa all'inflazione. Di fatto è come un'azione di politica monetaria. Chiederà alle banche di aumentare le riserve, quindi cercare in questo modo di drenare liquidità sul mercato e raffreddare la corsa dei prezzi. Da Giappone, il governo giapponese ha approvato il disegno di legge che consentirà alla TEPCO, cioè che è il gestore della centrale di Fukushima, di provvedere ai risarcimenti danni causati dalla crisi nucleare e risarcimenti soprattutto per i residenti e anche per le imprese. Il titolo ha guadagnato il 25% alla borsa di Tokyo. Ancora le vendite a dettaglio in America calano ma meno del previsto, mentre lo stesso Barack Obama in un'intervista alla NBC ha ammesso che la crescita dell'occupazione in America non è veloce come dovrebbe essere per recuperare i posti persi con la recessione. Ascolteremo anche Mario Draghi, che oggi si è presentato per la prima volta davanti al Parlamento europeo nella sua veste di presidente designato, così si chiama, della Banca Centrale Europea. Draghi ha ribadito che la crisi non mette in discussione il successo dell'euro, che ha confermato di essere contrario, quindi sulla linea della Banca Centrale Europea, al fallimento di qualunque paese dell'area euro e quindi anche la Grecia, e ha negato che vi fosse alcun ruolo della BCE e personale nell'operazione Goldman Sachs del 2000 sul debito della Grecia. E poi un riferimento anche al passato, perché Draghi ha detto: la situazione dell'Italia negli anni 90 era peggiore di quella della Grecia di adesso, ma nel 92 l'Italia presentò un piano che venne considerato credibile dai mercati e che quindi permise all'Italia non solo di rientrare nello SME, ma di entrare soprattutto nell'euro. Nel frattempo però vanno a record sia i tassi di interesse che i rendimenti delle obbligazioni greche, ma anche la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e la corrispettiva obbligazione tedesca. Allora, il BTP a 10 anni, se dovesse essere collocato, renderebbe il 17%, e la differenza con l'equivalente BTP tedesco è del 14% come rendimento. È il massimo mai visto dai tempi in cui è nato l'euro, cioè dal 1999. La Grecia però oggi ha collocato BOT a 6 mesi per 1.600.000.000 di euro, con un tasso medio al rialzo di quasi il 5%, 4,96%. La domanda ha superato l'offerta di 2,5 volte. E che il problema Grecia vada risolto ora lo conferma anche il numero uno del gruppo Unicredit, Federico Ghizzoni, in un'intervista a Radio 24 per un tema legato all'aiuto ai talenti italiani a restare in Italia. Lo ha intervistato il nostro Sergio Nava e ha fatto questa battuta sulla Grecia: io ricordo che alle banche europee, in primo luogo quelle tedesche e francesi, è stato chiesto di volontariamente di intervenire e ristrutturare i loro crediti con la Grecia, quindi riscadenziare, come si direbbe con un gergo da mutuo, le rate e di fatto quindi abbassare i rendimenti. È stato chiesto su base volontaria, ma è chiaro che le banche europee, solo Francia e Germania, sono esposte come banche per 80 miliardi nei confronti della Grecia. Sentiamo Ghizzoni sul problema greco. Credo che in una situazione come l'attuale sia necessario più un approccio volontario che non obbligatorio. Poi mi sembra che la proposta tedesca sia più per un allungamento del debito che non per un taglio del debito. Quindi credo che alla fine le due si possono anche conciliare, perché il problema Grecia adesso va risolto, non c'è più tempo per aspettare. Quindi credo che con la buona volontà di tutti, incluso i privati, se le proposte sono accettabili, si debba e si possa fare. Il tempo però stringe. E non c'è più margine, l'impressione, anche perché i mercati stanno veramente mettendo il fiato sul collo. Infatti questo è il punto, questo continuo prolungarsi l'incertezza sta veramente mettendo in difficoltà tutti quanti, a partire dalla Grecia, che forse non merita questo trattamento. Quindi di nuovo è una questione oggi di tempi e di urgenza. Poi tutto credo si possa discutere. Per un allungamento del debito credo che anche su base volontaria ci possa essere interesse, perché tutti quanti ci rendiamo conto che il problema c'è. L'approccio di coinvolgere gli investitori privati in qualche modo è percorribile? È percorribile, ripeto, sempre su base volontaria, questo è importante, anche perché riguarda un po' il passato, no? Possiamo poi discutere per il futuro, il passato deve essere su base volontaria, altrimenti le regole del gioco non varrebbero più. Però se sono poi proposte realistiche, credo che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti e si possono analizzare, vista la drammaticità del problema. Così appunto il numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni. Ancora due notizie in breve, ne parleremo più avanti, ma le entrate fiscali nei primi quattro mesi dell'anno sono tornate ai livelli pre-crisi, più 5,6%, 115 miliardi di euro di entrate fiscali, ed è ricco anche il bottino cosiddetto della lotta all'evasione. Gli incassi relativi alle iscrizioni a ruolo sono aumentati di quasi il 27% nei primi quattro mesi. Anche le entrate locali sono in lieve crescita, più 1% nei primi quattro mesi, più 2,3% l'IRPEF regionale, mezzo punto in più per l'IRAP, cala leggermente l'IRPEF comunale. E anche la Banca d'Italia conferma un buon andamento nei primi quattro mesi, più 6% delle entrate fiscali, però segnala che il debito d'aprile ha toccato un nuovo record, lo prendiamo a livello nominale, è ovvio che si va direi con il record, 1.890 miliardi di euro il nostro debito. Il debito degli enti locali, ahimè, è salito di quasi il 3%, a 114 miliardi nel 2011, fonte Banca d'Italia. E allora il ministro Tremonti, oggi, lo ascolteremo più avanti, è intervenuto all'assemblea annuale della Confartigianato sui tagli, i tagli e la riforma fiscale. Allora, ha parlato in primo luogo di tagli Tremonti, ricordando che quando si parla di tagli ogni ministro vuole che vengano tagliate le spese dell'altro. Io considero non corretta, solo in parte corretta, la critica sui tagli. Premesso che la tecnica è quella che veniva osannata come metodo Gordon Brown, il vecchio sistema e il sistema che abbiamo cercato di applicare è: ogni ministero fa il suo bilancio, ha un obiettivo e poi può spostare, ed è stato un accordo con il Parlamento, può spostare le voci. Dobbiamo dire oggettivamente che questo non è avvenuto su vasta scala. Per essere chiari, qui è molto facile dire no ai tagli lineari, però di solito quando vai a parlare con uno ti dice tagli, taglia l'altro. Credo che sia fondamentale che la classe politica dia un esempio. Ci sono molti costi della politica che devono essere ridotti. E non conta quanti soldi valgono, conta che così puoi legittimarti nel disegno di una paese nuovo. Questo vuol dire che tutti gli incarichi politici o pubblici sono remunerati come è nella media europea. E non è difficile calcolare la media europea. Se poi uno ti dice che nella media europea ci sono anche i paesi non euro, basta limitarsi ai paesi euro per avere un dato di riferimento oggettivo. Ed è questo il presupposto fondamentale per cominciare a discutere di finanza pubblica e di riforma fiscale. Provo ad essere ancora più chiaro: meno aerei blu e più all'Italia. Meno aerei blu e più all'Italia, questo è il messaggio di Tremonti, molto chiaro su questo. Prima tagliamo i costi della politica se vogliamo chiedere il taglio dei costi al paese, e poi sui tagli mirati, attenzione, è facile parlarne, poi quando vado a chiedere risparmio ogni ministro dice beh, insomma, vado a tagliare o vai a tagliare nell'altro ministero. Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Adesso parliamo con lei della vostra iniziativa sulla green economy, visto che la Sardegna, tra l'altro, è la regione in Italia che ha espresso, il motivo per cui l'abbiamo invitata, la maggior percentuale anti-energia nucleare, no? Tra il 98,4% di sì. E quindi è già un dato importante, la media è stata altissima in tutto il territorio. Voi, come sardi, siete quelli che avete bocciato più di tutti l'ipotesi del nucleare. Mi dica però una cosa, lei cosa vola? Aerei Blu o perché il commento di Tremonti è stato chiaro, o usa Meridiana l'Italia? Io uso Meridiana e Alitalia, ma è evidente che ciò non toglie che la realtà che viviamo non debba essere valutata e interpretata soprattutto col metro del futuro, quindi cercando di guardare al futuro. Penso che la vera responsabilità del politico sia anche quella di gestire l'emergenza, ma soprattutto di programmare in modo tale che dall'emergenza in futuro si possa uscire. Peraltro vorrei aggiungere, noi sul nucleare l'abbiamo detto due volte, il sì per dire no, perché abbiamo celebrato il primo referendum in anteprima, quello nostro consultivo, nello scorso 15 maggio, e il risultato è stato altrettanto eclatante. È una posizione che non nasce sull'onda emotiva di Fukushima, lo abbiamo anche questo dichiarato, era nel mio programma elettorale, quindi stiamo parlando del febbraio del 2009, in un momento non sospetto, ed è una scelta che si basa su una ipotesi alternativa, come diceva lei richiamando il concetto della green economy, su un'ipotesi alternativa che dal nostro punto di vista vede la Sardegna a vocazione naturale verso la green economy, ma poi anche una scelta che ritengo sia giusto, e mi fa piacere che gli italiani lo abbiano detto in modo forte e chiaro, che deve interessare l'intero paese. Allora, poi arriviamo alle vostre iniziative su un progetto molto interessante, devo dire, perché l'ho letto, CO2 Sardegna CO2, no? Si chiama CO2.0, ci mancherebbe, se no Sardegna CO2 sarebbe fuorviante. CO2.0, però mi dica una cosa, scusi, lei ha votato quindi sì ai quesiti sul nucleare, sull'acqua? Io ho votato sì al solo quesito sul nucleare e non ho ritirato la scheda con riferimento agli altri tre quesiti. Questo era il mio pensiero, la mia posizione. Peraltro in questa fase abbiamo sempre detto, diciamo, insomma, libertà di espressione sui gli altri quesiti. Io da subito invece sul nucleare ho invitato tutti a esprimersi in una direzione ben precisa. Ancora su questo, insomma, lei è stata eletta in una regione, appunto, è lei del PDL, in una regione che ha stragrande maggioranza, ha votato per il sì all'abrogazione della legge sul nucleare, quindi per il no al nucleare. Sì. Cosa analoga è capitata anche in Veneto, abbiamo visto il suo omologo Luca Zaia intervenire più volte, dire no, io voterò sì al referendum sul nucleare, e anche in Veneto fortissima è stata, in una terra quindi con una grossa presenza leghista, il numero di votanti contro il nucleare. Le chiedo, lei, visto che è un esponente anche importante del PDL in una regione dove avete appena perso Cagliari come sindaco, che critica può muovere, diciamo, al modo in cui è stato veicolato, mettiamolo così, il referendum, visto che poi vari governatori dell'area politica del governo si sono però, tra virgolette, dissociati, lei incluso. Ma guardi, allora, intanto vorrei precisare che questi quesiti referendari dovrebbero essere, se si vuol valorizzare lo strumento del referendum, dovrebbero essere valutati come tali, ovvero sia non utilizzati come valutazione politica sull'operato di un governo nazionale, piuttosto che regionale, perché poi guardi, i ragionamenti vengono traslati anche in periferia e vengono fatti dall'opposizione in modo esattamente analogo. Se è vero che il referendum è uno strumento fondamentale per la democrazia, per consentire ai cittadini di esprimersi direttamente, allora concentriamo l'attenzione su ciò su cui si esprimono. Io credo che fosse sbagliato togliere questa possibilità, perché è un diritto del cittadino esprimere il proprio pensiero, e noi abbiamo il dovere di facilitare questa espressione di pensiero. Per quanto riguarda la Sardegna, devo dire, insomma, considerato l'anticipazione del referendum di cui la parlavo prima, ne vado particolarmente fiero, perché questo significa, al di là di quella che è la decisione che è in linea col resto d'Italia, significa però una volontà forte di esprimersi e quindi di dare spazio alla democrazia. Le dico anche che sul primo quesito, cioè quello del referendum sardo, noi lo abbiamo il referendum celebrato insieme alle amministrative, e per fare questo, posto che la legge nostra non lo consentiva, abbiamo anche fatto una leggina di modifica, quindi lo abbiamo fatto con convinzione, proprio per poter agevolare questo processo. Allora, poi vorrei tornare sul punto, però mi piace anche la parte propositiva. Sardegna CO2.0, se ho ben capito, voi volete realizzare comuni in classe energetica A, adesso ci spiega cos'è, e poi riconvertire le centrali dall'olio combustibile al gas metano, ridurre le emissioni del settore trasporti, addirittura, e poi avete degli obiettivi sostanzialmente quelli stabiliti dal 20-20-20, cioè almeno il 20% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020 per arrivare al 35% entro il 2030. Ci dice come pensate di riuscire a farlo? Ma sì, allora intanto il primo aspetto è quello culturale, educativo, tant'è che il programma prevede una parte importante delle attività rivolte proprio a questo. L'aspetto educativo è fondamentale sia nel quadro attuale, perché gli esperti dicono, e questo insomma corrisponde al vero, che si può ottenere un contenimento, un risparmio sul consumo attuale che può raggiungere anche il 30% semplicemente adottando uno stile di vita, delle regole che tengano conto di questa situazione. Quindi il programma partirà dai primi comuni, saranno dei centri pilota, e sarà fatto a tappeto nelle comunità con dei nostri formatori, educatori che andranno di casa in casa col materiale proprio per cercare di spiegare questi concetti. Poi l'altro aspetto è quello invece della promozione di progetti che vanno in modo più specifico e netto sulla green economy, che passano intanto sulle amministrazioni pubbliche che hanno un margine di miglioramento attraverso l'uso delle rinnovabili straordinario, poi con programmi che saranno anche a favore dei privati o joint venture pubblico-privato per realizzare gli edifici secondo quei standard che oggi sono quelli che portano appunto a quella classe A, quindi per il consumo energetico, per il risparmio, ma poi attraverso l'utilizzo delle energie alternative, il fotovoltaico, il solare termodinamico e quant'altro. Tutto ciò per ottenere quel risultato. Noi abbiamo oggi una composizione di produzione dell'energia che per il 50% circa è data dall'utilizzo dell'olio combustibile, per un altro 42% dal carbone e per un 8% residuo dalle rinnovabili. L'obiettivo deve essere quello, progressivamente sostituire carbone in parte, perché non è possibile sostituirlo interamente, olio combustibile speriamo quasi interamente, puntando al metano, che noi ci aspettiamo che arrivi il più presto possibile attraverso quell'opera importante che si chiama Galsi, che è il gasdotto che collegherà la Sardegna con l'Algeria, e poi attraverso un programma molto spinto di realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili. Allora, lei mi dà ancora 5 minuti, governatore? Certo, con piacere. Perché ho un paio di domande da farle, poi ci sono molti ascoltatori o sardi o amanti della Sardegna che ci girano le domande al 349-238-6666, ho il metodo della pubblicità, poi vorrei chiedere appunto sempre in tema di investimenti verdi e però anche di posizioni sul verde. Meteo pubblicità. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'intervista con il presidente della Regione Sardegna Cappellacci, regione che ha avuto il record di voto sì sul quesito nucleare e che è impegnata, come ci ricordava Cappellacci, in questo progetto CO2.0. Domanda, progetto molto bello, Cappellacci lei ci ha ricordato, classe energetica per i comuni, la cultura, lavorare anche sulla sensibilità, diciamo, civica delle persone, ridurre le emissioni del settore trasporti, domestico e terziario, arrivare al 20% di fonti rinnovabili. Domanda, ma secondo lei non è strano, cioè che lei che appartiene pure al PDL, che il PDL sia passato come il partito del nucleare, cioè lei non ci trova una contraddizione in questo suo impegno e nell'aver fatto del nucleare una battaglia finché non è arrivata a Fukushima? No, nel modo più assoluto. Io credo che le decisioni della politica, in particolare degli amministratori pubblici, devono essere fatte nell'uso, nell'interesse esclusivo della territori, delle comunità che si rappresentano. Quando questo interesse dovesse anche andare a scontrarsi con quelle che sono le posizioni anche di partito, bisogna, come dire, guardare oltre la siepe, superare lo steccato e andare a realizzare le migliori condizioni per lo sviluppo di una terra. Questa è la prima considerazione. La seconda, e grazie al cielo, insomma, viviamo nella democrazia, io credo che sia un valore aggiunto anche all'interno di un partito, all'interno di un contesto politico, poter avere differenti posizioni che vengono sostenute, portate avanti in modo coerente, sereno, nel rispetto dell'altrui convinzione, ma chiedendo altrettanto rispetto per la mia. No, su questo guardi, massimo appoggio, anche perché su questi, su certi temi non si può avere un'unica linea. Le giro alcune domande agli ascoltatori che immagino essere o sardi o amanti della sua regione. La vertenza Meridiana Fly, c'è una dichiarazione di oggi, di circa 10 minuti fa, l'amministratore legato di Meridiana Fly, Massimo Chieli, ha detto: sono momenti delicati per dare un futuro alla compagnia, non si deve perdere tempo. Non perdiamo tempo sul piano. La posizione della regione su questo, perché Meridiana Fly è in acque abbastanza agitate in questo momento ed è fondamentale per il vostro, visto che voi avete fatto anche la polemica con le, giustamente a mio avviso, con chi trasportava passeggeri in Sardegna, avete noleggiato, quante navi sono? Due? Sono due, speriamo a breve che sia la terza. Per cambiare i prezzi. Facciamo il viaggio inaugurale, la prima nave parte da Civitavecchia verso Golfo Aranci. Ecco, la vostra posizione su Meridiana Fly? Ma non è differente, il problema del trasporto per la Sardegna è vitale ovviamente, e direi che la Meridiana nel tempo per noi ha rappresentato quello che la Ripalia ha rappresentato per l'Italia, quindi è un po' la nostra compagnia di bandiera. Per questo motivo ci siamo impegnati da subito, abbiamo avviato il tavolo, abbiamo un contatto costante e continuo sia con il management che con la proprietà e stiamo seguendo con grande attenzione, pronti ovviamente a fare la nostra parte. E in che cosa consiste? Nel cercare di avviare, indirizzare il processo verso le migliori soluzioni. Siamo impegnati in modo particolare sulla fase che riguarda l'esternalizzazione, perché ci sia la massima garanzia e in termini di servizio e in termini di tutela dei posti di lavoro, e poi naturalmente sul destino più generale della compagnia, sul quale non nascondiamo di avere, come dire, un fortissimo interesse a che tutto vada nel senso che possa conservare e consolidare l'esistenza della Meridiana. È indispensabile dal nostro punto di vista che, perché ci sia, e lo abbiamo vissuto sul fronte navale, perché ci sia un servizio che sia effettivamente a favore dell'utenza, deve esserci anche una varietà di offerta, deve essere garantita la libera concorrenza, e quindi bisogna fare tutto quanto possibile per consentire a tutti i vettori, Meridiana compresa, forse in primis, di poter esercitare su quelle rotte. Ancora una domanda riguarda in realtà da dove siamo partiti, cioè lo sforzo, lei ha chiarito che ha votato sì su un unico quesito, quello sul nucleare, lo sforzo verso le rinnovabili, ripeto, è più che apprezzabile, c'è qualcuno che contesta l'utilizzo del carbone pulito, ma anche qui attenzione, perché anche abbiamo letto un po' di imprecisioni in questi giorni anche sulla vicenda di Porto Tolle. Comunque l'obiettivo vostro è il 10% entro il 2030. Vorrei tornare da dove eravamo partiti. Lei ha sentito in diretta con noi il ministro Tremonti oggi dire meno auto blu, i costi lineari sono difficili da fare. Lei è governatore in una regione che ha quasi un record, non un vero e proprio record, ma insomma nei giovani senza lavoro, quasi il 39% in Sardegna, la media nazionale è 28,6. Abbiamo visto le difficoltà e l'abbiamo raccontato in questi anni con la vicenda di Porto Vesme, ma non solo, i pastori sardi, la difficoltà anche a livello di popolazione, nei redditi, nei consumi, nel potere d'acquisto. Quando il suo collega Roberto Formigoni oggi dice che dopo il referendum è un ulteriore segnale che bisogna cambiare rotta e cambiare linea, lei come membro importante del PDL, ma come governatore di una regione, quindi di tutti i sardi, è d'accordo con Formigoni o no? Ma io sono d'accordo, nel senso che bisogna certamente stringere ulteriormente per cercare di dare uno slancio decisivo. Vorrei commentare brevemente quei numeri che lei ha citato per dirle che quel numero, per esempio relativo alla disoccupazione giovanile, ha fatto registrare rispetto all'anno prima un calo di circa 6 punti, quindi questo un miglioramento, ci fa piacere, certo, dell'indice. Abbiamo i posti di lavoro che sino al 2009 erano per falsi in misura notevolissima ogni anno, nel 2010 abbiamo avuto un piccolo incremento, quindi un'inversione di tendenza, così come il PIL che ha smesso di decrescere e ha ripreso a crescere. Quindi noi abbiamo i primi segnali di una ripresa, allora a maggior ragione la politica tutta deve, il consenso di responsabilità, avere quello slancio necessario a intercettare questi segnali se ci sono, così come dimostrato dai numeri, e cercare di fare un passo decisivo verso una rilancio. Ma insomma, lei è più d'accordo con Maroni, Berlusconi o con Tremonti? Cioè, bisogna fare la riforma fiscale o essere molto molto cauti prima di toccare il gettito? Cioè, qual è la sua opinione in questo momento? Guardi, noi abbiamo avuto in Sardegna una manifestazione di protesta delle partite IVA che ha visto migliaia e migliaia di persone scendere in piazza a manifestare contro alcune situazioni che riguardano Equitalia, che riguardano la discussione, che sono veramente drammatiche. Io credo che abbiamo il dovere di intervenire, quindi credo che sia necessario metterci mano, credo che sia necessario trovare tutti i meccanismi che possano consentire alle imprese di avere quell'ossigeno che le consente di ripartire, altrimenti non la intercetteremo mai questo movimento. E quindi sì anche alle primarie dentro il PDL? Assolutamente sì, io non ho difficoltà a dichiararlo, credo che sia giusto dare la possibilità alla base di dare un contributo fattivo, positivo e propositivo. Ultima domanda, ci chiedono gli ascoltatori: quando partirà il progetto CO2.0 per la Sardegna, se questo vorrà dire che metterete anche più pannelli fotovoltaici in zone agricole, oppure non è previsto dal progetto CO2? Quando la partenza è il fotovoltaico? La partenza entro pochi giorni, io credo che entro una decina di giorni verranno pubblicati i bandi, forse anche prima, le campagne vivono, l'agricoltura vivono una serie di problemi anche essi molto gravi. Credo che la politica delle rinnovabili e l'utilizzo di questi strumenti nelle campagne sia uno dei modi attraverso i quali, attraverso la multidisciplinarietà, attraverso la possibilità di integrare il reddito e di diversificare, credo che sia una delle strade per dare sostegno all'agricoltura. Allora, in bocca al lupo al progetto della Regione Sardegna, grazie anche alla disponibilità del Presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, nel senso che il progetto è interessantissimo, noi vorremmo vedere una Sardegna sempre più verde e, mi raccomando, meno cementificata sulle coste, Presidente Cappellacci. È il nostro patrimonio più grande, l'ambiente, le coste e il paesaggio, quindi soprattutto di questi tempi in cui i valori e le ricchezze sono scarse, lo vogliamo assolutamente salvaguardare. La prendiamo in parola, grazie, buon lavoro. Grazie a voi altrettanto, grazie, arrivederci. Allora, di tutto in questa intervista, sono d'accordo con voi, non si può però, adesso abbiate pazienza, lo dico a chi scrive, continuare a chiedere. Su Meridiana ha detto, sui traghetti ha detto, sul referendum sul nucleare ha detto, sulla cementificazione ha risposto, se poi uno non è convinto, questa fa parte della democrazia e anche della possibilità che offre questo programma. Adesso arriviamo alla borsa, più 1,40%. Milano, più 1,70 Francoforte, più 1,50 Parigi, più 0,50 invece Londra, a 1,45 rapporto euro su dollaro. Facciamo però prima il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, la borsa, oggi parecchi temi a partire da Ansaldo STS. Più 4,40% vicinissima, è 10 euro per azione, la società del gruppo Finmeccanica che opera nella segnaletica per il mondo ferroviario e vince commesse un po' in tutto il mondo. Ogni tanto parliamo anche dei successi delle nostre imprese. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ansaldo, ma bene anche Pirelli, più 3%, e poi Fiat Industrial, più 3%, e Fiat Auto, più 2,90%. Ansaldo oggi è è stata la migliore del Fucimib, come tu hai segnalato. C'è da dire che il titolo aveva un po' sofferto ultimamente, insomma anche complessivamente all'inizio dell'anno, della situazione greca, dove la società ha diverse commesse pendenti. In realtà gli analisti adesso sono un po' più fiduciosi, ho detto situazione greca, mi intendevo la situazione libica. Gli analisti sono fiduciosi non tanto sulla questione libica, che si riproporrà poi nel 2012, quanto sul fatto che le commesse ferroviarie nel business della segnalazione ferroviaria sono attese in forte crescita nella seconda parte dell'anno, e questo ha dato fiducia al titolo. Come tu segnalavi, invece, ottimo momento del settore auto, in particolare degli pneumatici, già da qualche giorno, nei benefici a Pirelli, ma anche Michelin in Francia. Per quanto riguarda Pirelli, l'avvicinarsi della fine del semestre fa sì che il mercato si attenda, con la comunicazione dei conti semestrali, un ulteriore rialzo dei target di fine anno. Ricordiamo che Pirelli ci ha abituato negli ultimi trimestri a diversi rialzi di target, con una ripresa forte della domanda, soprattutto nel segmento premium. Per quanto riguarda Fiat, l'effetto è derivante anche dal roadshow di Londra, che è iniziato ieri per il collocamento di un importante prestito obbligazionario. Fiat in quell'occasione, cioè ieri, ha confermato i target 2011-2014, ha confermato anche i target di produzione insieme a Chrysler al 2014, circa 6 milioni di veicoli, e questo ha fatto sì che, insieme a un settore auto in buon andamento, oggi è stato tra i migliori. Fiat ha guadagnato il 3% in Fiat Industrial, il 2,88% invece in Fiat S.P.A. Altri titoli oggi, bene, tutte le banche, Unicredito più 2,50% come Intesa San Paolo, devo dire anche assicurativi come Fondiera Sai più 1,90%, Banco Popolare più 1,30%, Generali più 1,20%, Monte dei Paschi più 0,90%, tranne Ubibanca meno 1,12%. Allora, insomma, sono andate bene le aste oggi in Grecia, l'abbiamo raccontata, e anche in Italia e in Spagna. Perché Ubi perde? Beh, Ubi è quella che sta senz'altro in questo periodo soffrendo più delle altre le incertezze successive all'aumento di capitale. Insomma, mentre le altre abbiamo visto segnalare anche delle riscosse abbastanza significative, in primis Intesa San Paolo, dopo l'ottimo andamento dell'aumento di capitale che ha ricevuto, che ha fatto praticamente il pieno, visto che le adesioni sono state il 99,8%, ci è andata dietro Unicredit, che sul finale l'ha anche sorpassata. Ma insomma, su Ubi ci sono ancora incertezze pendenti. Invece l'altra banca, diciamo, su cui ci sono un po' più di incertezze, Banca Popolare di Milano, oggi tutto sommato si è un po' risollevata, anche se è stata lontana dalle performance delle altre, sì. Ha fatto più 0,6%. Allora, poi ci sono alcuni casi. Saipem oggi va bene, lo citavamo, più 2,33%, due nuovi contratti offshore, l'annuncio di ieri, valore oltre $1 miliardo, e ne risente positivamente anche Eni, più 1%. Tra i migliori e i peggiori, Zucchi più 12,3%, Stefanel più 10,90%, Carraro più 9,50%, TAS più 6,23%, Elica più 5,30%. Però le buone società, insomma, il nome in questo momento può trarre in inganno, ex filatura di Pollone, perde il 6,5%, perché le buone società hanno conosciuto però l'arresto del loro azionista di riferimento, Vittorio Casale. Esattamente, la società è una società di una holding di partecipazione di investimenti in private equity. Casale solo a fine maggio aveva rilevato il 27% dall'Istituto Ligure Mobiliare. Oggi è arrivata questa notizia dell'arresto dell'immobiliarista per bancarotta fraudolenta, e il titolo ne ha fortemente risentito, come naturale, ha perso il 6,5%, chiaramente. Dopo un paio di settimane dall'arrivo di un azionista di riferimento come Casale, questa notizia non poteva che affondare il titolo. Sì, oggi realizzi anche sui titoli che molto avevano corso ieri dopo la bocciatura del referendum, la bocciatura delle proposte di legge, meno 5% Carself, meno 5,77 KR Energy, meno 5,80 Pramac SPA, negativa anche Antichi Pelletieri -3,5%, Beghelli -3,5%. Grazie Antonio Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie a voi, buonasera. Volete sapere, no, la vicenda di Casale non c'entra nulla con l'altra vicenda, lo dico a chi scrive, di oggi, di cui vi hanno raccontato già i nostri GR, le 45 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla magistratura romana nei confronti di imprenditori e professionisti nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di evasione fiscale, tra l'altro anche il presidente della Confcommercio di Roma, Cesare Panbianchi, il commercialista Carlo Mazzieri. Non tanto di questo, ma della riforma fiscale così come l'ha oggi delineata il ministro Tremonti, le reazioni che ci sono state, ma anche l'intervento del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi come designato presidente della Banca Centrale Europea, parleremo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo averci fatto spiegare dal governatore della regione Sardegna perché ha votato sì al referendum, se non lo trovo una contraddizione visto l'orientamento del PDL, che cosa vorrebbe che il PDL facesse anche per la sua regione, oltre ai temi più legati alla regione Sardegna come il caso Meridiana Fly. Vi avevo annunciato anche la seconda puntata del nostro viaggio tra i settori produttivi. Abbiamo iniziato la settimana scorsa con il legno arredo, oggi la volta del settore calzaturiero, poi arriveremo invece alla dichiarazione del ministro Tremonti sulla riforma fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora parliamo di calzature, che significa per l'Italia il primo produttore di scarpe in Europa, il sesto al mondo. Con la conseguenza che vi lavorano circa 80.000 addetti in 5.700 aziende. Il 2010 era già stato un anno in cui si era avuto un incremento della produzione e anche delle esportazioni. Se ne è parlato recentemente all'Assemblea dell'ANCI, che è l'associazione che riunisce i calzaturieri italiani. C'è anche un nuovo presidente che si chiama Cleto Sagripanti, prende il posto di Vito Artioli. Presidente Sagripanti, buonasera. Buonasera Barisoni. E intanto complimenti, visto che è stato appena eletto. Allora, mi dica come va il settore delle calzature, che era uno di quelli più massacrati prima ancora della crisi, dall'ingresso della Cina nella WTO, ne abbiamo parlato molte volte. Vanno bene le esportazioni, ma mi sembra anche le importazioni, che non è una bella cosa per voi. Prego. Non è una bella cosa, e da una settimana sono orgoglioso di rappresentare questo settore e anche di continuare il lavoro di Artioli e degli altri colleghi per frenare un po' queste importazioni e salvaguardare più la produzione italiana, che è una produzione di nicchia nei miliardi di calzature che si fanno nel mondo, ma di grandissimo valore e unicità nel mondo. Allora, più 16% le importazioni e più 15% invece il nostro export. Sono 221 milioni di paia di scarpe che esportiamo nel mondo, per un totale di 6 miliardi e 600 milioni di euro. Il fronte interno sui consumi invece langue, latita, come per molti altri settori? Beh, il mercato italiano negli ultimi 3 anni non ha sentito in maniera particolare la crisi, come oggi non è risente di una crescita particolare, mentre le esportazioni stanno crescendo in modo sensibile. In Russia, io vengo da un distretto bellissimo che è il Fermano Maceratese, dove produciamo tante calzature made in Italy, esportiamo molto in Russia, ma anche mercati come la Francia, la Germania e l'Estremo Oriente ci danno segnali molto positivi, ci fanno sperare in un 2011 finalmente positivo per la produzione italiana. Quindi Russia, Medio Oriente e Asia? Sì, perché la Corea e il Giappone sono da anni grandi consumatori di calzature italiane, finalmente sta partendo la Cina in percentuale a due cifre, anche se in valore assoluto ancora irrilevante rispetto alle nostre produzioni, però ci fa ben sperare questa forte voglia, desiderio del Made in Italy in Cina, dal lusso ma anche dai marchi sotto il lusso. Ecco, mi scusi, Sacripanti, molto bene che riparta l'export, però sull'occupazione, voi nel 2010 avete avuto 224 calzaturifici che hanno chiuso in Italia, sì, e 2.800 quasi posti di lavoro che se ne sono andati. Il sistema come ha reagito? Cioè, siete riusciti a aumentare un po' le dimensioni di impresa? O è stata una selezione, diciamo, orizzontale e quindi in qualche modo non sulla qualità delle imprese, ma in generale al di là delle dimensioni di impresa? Purtroppo sono 15 anni ormai che l'occupazione nel settore calzaturiero è in calo, come anche il numero delle aziende. Speriamo non 2011, ma soprattutto 2012, in cui finalmente avremo rimbalzo e invertiremo questo trend. In questi 15 anni gli imprenditori nel distretto marchigiano, come qui in quello veneto, toscano, lombardo, campano, hanno investito sui brand, sui marchi, si sono messi insieme, quindi sono stati forse anche uno dei settori più dinamici, quindi in parte hanno riassorbito tale manodopera e in parte hanno sviluppato servizi, innovazione nel retail, ad esempio, anche lì rioccupando persone perse in questi 15 anni. Come procede la vostra campagna difesa del Made in Italy? Voi siete stati tra i primi a partire con una campagna pubblicitaria importante due anni fa, adesso vado a memoria, sulla difesa del Made in Italy, della qualità del Made in Italy quando si tratta di calzature. Noi abbiamo avuto un past president, Rossano Soldini, che si è battuto giustamente per il Made in Italy e il Made in a livello europeo. Vito Artioli ha continuato negli ultimi 4 anni questo investimento. Sarà mio obiettivo salvaguardare in primis la produzione Made in Italy, perché senza Made in Italy non ci può essere innovazione, progettazione, sviluppo di distretti, con forti investimenti in comunicazione, ma anche con una richiesta d'aiuto alla politica, che non può essere assente in un settore al di là dell'abbigliamento, ma delle calzature, che sono comparto moda a sé e devono ottenere più aiuti nei prossimi 2 anni. In bocca al lupo di nuovo, grazie al neopresidente. Buon futuro a tutti i calzaturieri italiani. Grazie al neopresidente dell'Associazione Nazionale dei Calzaturieri Italiani, Cleto Sacripanti. La politica assente è stato anche il refrain dell'assemblea di Confartigianato, di cui ci occupiamo tra un minuto. Prima però vi voglio far ascoltare che cosa ha detto il presidente dell'autorità per la garanzia delle comunicazioni, Corrado Calabrò, nella sua relazione annuale al Parlamento sul canone. So già che arriveranno molti messaggi dopo. 349-238-6666 è comunque il numero per scriverli. Intollerabile il livello di evasione dal canone Rai. Il sistema televisivo italiano cresce del 4,5% in termini di risorse e si consolida in una tripartizione delle stesse tra Rai, Mediaset e Sky. Mediaset rappresenta il 30% delle risorse complessive, Sky il 29%, Rai il 28%. Nella raccolta pubblicitaria, Mediaset, con il 38% degli ascolti, attira il 56% delle risorse pubblicitarie, Sky meno del 5%. Le entrate di Sky derivano chiaramente dagli abbonamenti. La RAI, con circa il 41% degli ascolti, controlla il 24% della pubblicità, opera uno stringente limite di legge. È intollerabile il livello di evasione del canone. Con il canone non riscosso, la RAI sarebbe il primo operatore. Allora, l'evasione è sempre sbagliata, lo dico già a chi sta scrivendo al 349-238-6666, ed è sbagliata anche nel caso del canone Rai. Attenzione quindi anche alla classe politica quando invita a non pagare il canone perché non gli piacciono certi programmi della Rai, è un invito all'evasione. Sempre il presidente dell'Authority della GCOM, Corrado Calabrò, ha aggiunto che sulla banda larga l'Italia è sull'orlo della retrocessione in Serie B, perché la percentuale di abitazioni connesse alla banda larga è inferiore nel paese al 50%, e poi è intervenuto sull'asta, o quindi sulla gara, per le frequenze del dividendo digitale esterno. Il governo si aspetta un introito da questa gara di 2 miliardi e 400 milioni, ha detto, insomma, se si vuole avere successo su questa gara è avere subito la disponibilità. La chiave è avere subito la disponibilità delle frequenze da assegnare. Più che mai necessaria, più che mai indifferibile, è dunque la gara per l'assegnazione di ulteriori frequenze alle telecomunicazioni mobili prevista dalla legge di stabilità 2011. L'Agicom ha posto in consultazione le regole di gara il 23 marzo scorso e le ha approvate a maggio. Sono state avviate dal Ministero dello Sviluppo Economico le procedure preliminari alla gara. Ogni ritardo comporterebbe ovviamente la dilazione dell'incasso, che le nostre regole prospettano a certe condizioni anche superiore alla cifra di 2 miliardi e 400 milioni preventivata dalla legge, malgrado le utilizzazioni intrusive di cui dicevo. Condizione fondamentale per il successo della gara è però la disponibilità in tempi ravvicinati delle frequenze da assegnare, liberando senza indugi quelle ancora occupate dal Ministero della Difesa e dalle televisioni private e prevedendo anche degli incentivi per la liberazione anticipata. Senza questa operazione è difficile incassare 2 miliardi e 400 milioni. E dei soldi che lo Stato deve incassare e che ha già incassato parliamo dopo il traffico, perché c'è un buon dato per lo Stato sicuramente sulle entrate fiscali nei primi 5 mesi dell'anno, e poi c'è l'intervento del ministro Giulio Tremonti oggi alla Confartigianato di nuovo sul tema fiscale. 349-238-6666 per gli sms. Traffico prima. Allora, un ministro Tremonti a tutto campo oggi all'Assemblea della Confartigianato. Il presidente degli artigiani italiani Guerrini ha detto, insomma, lamentiamo l'assenza della politica dal mondo dell'artigianato, e non è stato tenero sugli interventi che vanno fatti, sulle tasse pagate, 54 miliardi di tasse in più rispetto alla media europea si pagano in Italia, abbassare le tasse sul lavoro e sui giovani sono riforme urgenti da fare. Questa è la richiesta che è arrivata dal presidente Confartigianato. Sentiamo l'intervento del ministro Tremonti. Due passaggi principali a nostro avviso: i tagli ai ministeri e i tagli ai costi della politica, e poi invece il sistema delle aliquote. Partiamo dai tagli ai ministeri e dai tagli ai costi della politica. Io considero non corretta, solo in parte corretta, la critica sui tagli. Premesso che la tecnica è quella che veniva osannata come metodo Gordon Brown, il vecchio sistema e il sistema che abbiamo cercato di applicare è: ogni ministero fa il suo bilancio, ha un obiettivo e poi può spostare, ed è stato un accordo con il Parlamento, può spostare le voci. Dobbiamo dire oggettivamente che questo non è avvenuto su vasta scala. Per essere chiari, qui è molto facile dire no ai tagli lineari, però di solito quando vai a parlare con uno ti dice tagli, taglia l'altro. Credo che sia fondamentale che la classe politica dia un esempio. Ci sono molti costi della politica che devono essere ridotti. E non conta quanti soldi valgono, conta che così puoi legittimarti nel disegno di un paese nuovo. Questo vuol dire che tutti gli incarichi politici o pubblici sono remunerati come è nella media europea. E non è difficile calcolare la media europea. Se poi uno ti dice che nella media europea ci sono anche i paesi non euro, basta limitarsi ai paesi euro per avere un dato di riferimento oggettivo. Ed è questo il presupposto fondamentale per cominciare a discutere di finanza pubblica e di riforma fiscale. Provo ad essere ancora più chiaro: meno aerei blu e più all'Italia. Il presidente della Regione Sardegna prima, Cappellacci, ci ha detto che lui già vola con Meridiana e all'Italia. Esistono anche Ryanair, sottolineano i nostri ascoltatori. Dino Peso, adesso le 24 ore, buonasera. Buonasera. Adesso arriva la domanda per te su questo Tremonti che, insomma, ha toccato tasti anche molto di pancia: meno auto blu, meno voli blu, i ministri che non vogliono mai tagliare, vogliono far tagliare l'altro. Ti faccio sentire un altro passaggio del ragionamento di pancia, in cui Tremonti annuncia giusto un sistema con tre aliquote, però ha anche aggiunto: bisogna togliere i regimi di favore, le tante agevolazioni e benefici godute da chi non ne ha titolo, gli assegni vanno tolti a quelli che hanno il gippone. Manca ancora un po', arriviamo a una cosa anche i ricchi piangono. Dico, per scherzare, le tre aliquote proposte da Tremonti. Per avere un'idea di come deve essere fatta e come può essere fatta la riforma fiscale di questo governo, basta andare a vedere com'era la riforma fiscale del 2001, dove in Parlamento fu presentato un testo e fu approvato un testo. Lì ci sono le idee fondamentali ancora attuali, naturalmente un pezzo è stato fatto, altri devono essere fatti ancora. Primo, un codice di principi. Non è più possibile vivere in un sistema fiscale in cui la definizione dei soggetti, degli atti, degli interessi, delle sanzioni è diversa da imposta a imposta. Questo genera solo caos e questo riduce la credibilità dello Stato. L'idea del codice della codificazione non è il testo unico, è l'idea di trovare dei principi unificanti che vanno bene per i cittadini e che vanno bene per lo Stato. Perché uno Stato che non è credibile nel rapporto fiscale non è credibile come Stato. Un codice. È possibile unificare il catalogo dei tributi con la tecnica del codice, accorpando molti dei tributi che ci sono. Molti tributi minori non possono essere eliminati, ma dal lato degli adempimenti possono essere concentrati in una logica unica. E quindi è possibile ridurre il nostro sistema fiscale a 5 imposte. Se uno mi chiede che numero di aliquote sono giuste, ma credo che sia giusta la discussione aperta a tutti e su tutto. Io credo che sia giusto un sistema che ha 3 aliquote. Allora, questo nel giorno in cui abbiamo saputo, lo raccontavamo all'inizio del programma, dal Dipartimento delle Finanze, che vanno bene le entrate fiscali nei primi 4 mesi, 115,5 miliardi, quasi il 6% di aumento, si è tornati ai livelli di entrate fiscali pre-crisi, bene anche gli incassi della lotta all'evasione, il 27% in più dalle cartelle nei primi 4 mesi dell'anno. Dino Pesole, molti ascoltatori dicono: messo, ma Tremonti è 10 anni che governa. E va bene, a me sembra di notare un Tremonti che la prende dai costi, dai tagli della politica per creare consenso. È un Tremonti più politico? Direi di sì, certamente è molto spendibile dal punto di vista politico e anche di consenso. Tenendo conto però che il ministro Tremonti lo sa molto meglio di noi, che certamente non è che con il taglio delle auto blu o degli aerei di Stato ci copri la manovra fiscale, però comunque è un segnale importante, perché nel momento in cui siamo tutti chiamati a fare sacrifici e lui immagina una riforma di questo tipo, il segnale deve essere dato da tutti e i primi a dover fare la loro parte sono senz'altro i politici. Però detto questo, osserviamo come le cifre in ballo siano molto lontane, perché una manovra su 3 aliquote così imponente, il ministro non ha detto come intende articolarla, però obiettivamente i calcoli che abbiamo fatto noi nei giorni scorsi prevedono per un primissimo passo almeno un impegno pari a 9,5-10 miliardi che il ministro finanzierebbe attraverso un aumento dell'IVA e il riordino delle agevolazioni, e quindi dovrebbe essere autofinanziata, per così dire. E poi però i moduli successivi, quello che si vorrà fare in direzione delle 3 aliquote, quelli vanno finanziati e occorreranno dei soldi, quindi certamente il taglio alla spesa è la fonte primaria per finanziare l'abbassamento delle aliquote, lo diciamo tutti, lo dice da anni Draghi, ma anche insomma gli organismi internazionali. E il problema è che non è facile, lui stesso dice, difendendo i suoi tagli lineari, io ho provato a fare diversamente, ma ogni ministero, ogni ministro diceva taglia il bilancio dell'altro. No, questo lo sappiamo assolutamente. Però una domanda, mi sembra che oltre alla rimodulazione delle aliquote e all'aumento dell'IVA, inizi a fare breccia anche nel governo l'ipotesi di un aumento della tassazione delle rendite finanziarie. Abbiamo visto dichiarazioni anche oggi di un esponente del PDL come Formigoni. Se ne è parlato, è una delle ipotesi sulle quali sta lavorando lo stesso Tremonti. In realtà però anche qui bisogna un attimo chiarire di cosa si parla, perché già Tremonti ha escluso che da un eventuale allineamento del prelievo, di questo si sta parlando, perché noi oggi abbiamo, piccola premessa, un sistema un po' squilibrato, perché vige una tassazione del 12,5% sui titoli di Stato e sui cosiddetti guadagni di borsa, e invece del 27,5% sui depositi bancari e sui conti correnti. E dunque c'è una disparità di prelievo e l'Unione Europea da anni ci dice cercate di armonizzare. Allora l'idea potrebbe essere quella di portare tutto attorno al 20%, peraltro era una vecchia idea anche del governo Prodi, che naufragò miseramente. Che fu molto criticata da Tremonti allora. Fu molto criticata, però attenzione, perché già lo stesso Tremonti ha detto ma mai e poi mai io toccherò il risparmio delle famiglie, quindi già abbiamo escluso i titoli di Stato, e dunque a quel punto l'operazione non darebbe tanto ecco, come una cosa devastante, perché insomma sì, anche sul gettito non avremo, insomma, diciamo, prende la larga, prende forse forma. Mi sembra che, come tu hai chiarito molto bene, manchi ancora il tema della copertura, come si dice in gergo, cioè la riforma la puoi fare ma devi trovare 9 miliardi e mezzo il primo anno e poi finanziarla negli anni successivi. Grazie anche a Dino Pesole. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani torneremo su altri temi, Mario Draghi di oggi, anche la risposta che vi leggevo sulla Goldman Sachs. A me non resta adesso che augurarvi buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.